Benvenuti alla 22esima puntata di Cialtroni nello spazio. Un saluto da Francesco. Un saluto da Marco. E da Alessandro. Dai Francesco, che cos'è Cialtroni nello spazio? È una trasmissione che resiste nonostante tutto quello che sta accadendo nel mondo ed è uno dei particolari che andremo a parlare tra poco, la violazione della privacy e in particolare gli attacchi contro i server che ci sono stati del movimento nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, ma questo durava già più da un anno. È una trasmissione che resiste per parlare appunto anche di privacy. Oggi abbiamo deciso di parlare di privacy, ma soprattutto di cultura libera, cultura informatica, libera musica, libera mente, tutto quello che ci piace liberare. In particolare questo... libero software. Esatto, infatti vogliamo citare anche, a proposito anche della privacy, Enigmail, un plugin per Firefox per poter mandare le proprie mail, per Thunderbird, per poter mandare le proprie mail sicure e... un progetto per adottare i blog cinesi e un po' di altre cose. Credo che abbiamo battuto il record di scaletta più confusionaria della storia. Questo è successo perché? Perché non l'abbiamo fatta fare ad Alessandro. E noi lo sappiamo che quando non facciamo fare le cose ad Alessandro non è scusa. Ma lo vedo svogliato Alessandro ultimamente. Ma come svogliato? Dai, non è vero. Dai, Alessandro, che tipo di musica ci stai proponendo? Questa è sempre quella. Allora, no, quella è la base è sempre l'EP Believe che abbiamo ascoltato settimana scorsa. E anche la musica andiamo a prenderla ancora dall'album che abbiamo presentato settimana scorsa, che era Freestyle Mix Context di CC Mixter. E andremo a ascoltare delle altre tracce, insomma, perché ce ne erano svariate ed era un peccato consumarlo in una volta sola. Quindi minestra riscaldata questa settimana. Quello che fate voi di solito. Però con le news, degli ingredienti nuovi. Va bene, dai, allora tornando un attimo al fulcro della trasmissione, abbiamo un paio di news, forse una, non mi ricordo. Vediamo un po' queste. Da cosa partiamo, Marco? Adotta un blog, cosa significa? Ah sì, esatto, allora ero un attimo perso con... Allora, l'altra volta, nelle ultime puntate, abbiamo citato un attimino dei problemi della censura cinese, con appunto problemi da parte degli utenti che non possono pubblicare, non hanno la libertà di parola fondamentalmente, per cui internet, che teoricamente dovrebbe riuscire a fornirla a tutti, in questo caso si è trovata di fronte al problema di un controllo, una muraglia cinese. Esatto, una grande muraglia cinese alla libertà di parola che la Cina sta applicando da anni oramai per tutto quanto riguarda internet, che è, diciamo, l'unica forma più o meno anarchica di diffusione delle informazioni. E appunto, quindi i provider sono obbligati a mettere dei filtri sui contenuti che le persone pubblicano e insomma un sacco di problematiche. Lo stesso Google ha dei filtri sulle parole, esatto, di ricerca. I motori di ricerca rispondono diversamente a seconda di dove vengono, se vengono chiamati dall'interno della Cina, quindi non fanno vedere determinate pagine. Ma quindi in teoria, tornando a un concetto che avevamo già parlato l'altra volta, Tor, per esempio, che è un sistema di navigazione anonima, permetterebbe a un ragazzo cinese di utilizzare e fare le ricerche che vuole con Google. Esatto, sì. Tor, infatti, l'altra volta probabilmente non l'avevamo detto, appunto, permettendo di accedere a una rete completamente anonima e distribuita in giro per il mondo, permette comunque l'accesso alle informazioni da punti praticamente casuali, per cui alla fine non si può attuare questa politica di sei un cinese, ti connetti da una connessione cinese, a quel punto non ti facciamo vedere informazioni. Caratteristica interessante anche questa. Vabbè, la campagna Adotta un blog in particolare? La campagna Adotta un blog appunto è nata di recente per cercare di aiutare coloro che vogliono dire la loro, vogliono parlare della situazione cinese liberamente. Quindi cosa consiste? Fondamentalmente in un insieme di servizi che vengono forniti da entità esterne alla Cina, per esempio dislocate in vari posti del mondo, che permettono a un utente cinese di poter pubblicare delle notizie in modo anonimo, magari utilizzando sistemi come Tor, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e appunto di poter avere la libertà di parola, ovviamente fornita da un server, ad esempio, esterno alla Cina, che a quel punto potrebbe essere più difficile da bloccare da parte delle autorità cinesi, perché se è più facile bloccare Google perché si va direttamente a chiamare quelli di Google e si dice voi non dovete far vedere queste cose, se comunque la cosa si diffonde e ci sono tantissimi siti esterni che ospitano contenuti appunto cinesi, questi, cioè, è molto più problematico bloccarli. In questo modo si aiutano anche i cinesi, che fondamentalmente hanno il grosso problema magari di non conoscere la lingua inglese, o che è, diciamo, la lingua di base di internet, per cui a quel punto ci sono dei siti che si occupano appunto di fornire a coloro a cui lo chiedono un accesso verso dei siti all'esterno della Cina. Dalla privacy cinese passiamo alla privacy italiana invece. Perché mi guardi male, Alessandro? Abbiamo sbagliato qualcosa? No, dici. No, ok, allora passiamo alla privacy italiana, in particolare un server del movimento che ospitava due progetti strettamente collegati, il progetto autistici.org e inventati.org, è stato messo sotto controllo dalla Polizia Postale Italiana per circa un anno. Noi circa una settimana fa abbiamo sentito, quando era appena uscita la notizia, uno degli attivisti di questo progetto, Blicero, e quindi propongo che riascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato una settimana fa, e dopodiché vediamo, insomma, di aggiornamenti e di modi anche per evitare quello che è successo. È stato un ennesimo attacco contro la libertà di informazione, ma in particolare contro il movimento. Noi adesso ne parliamo con Blicero, di uno degli attivisti di Autistici e Inventati, che è un server di movimento che offre diversi servizi, che recentemente è stato posto sotto attacco. In particolare le modalità di questo attacco sono state un po' particolari. Ciao Blicero, grazie di essere con noi. Ciao agli ascoltatori e ascoltatrici. Senti, allora ci ricostruisci magari un attimo la vicenda anche di... Niente, diciamo che per quanto riguarda serventiautistici.org, inventati.org, non è certo la prima volta che ci vengono richieste informazioni relativamente a caselle di posta o siti web. Ovviamente il server, non tenendo alcun tipo di registrazione o di informazione rispetto a chi consulta cosa e a chi corrisponde cosa, ha sempre risposto agli inquirenti che non era in grado di dare alcun tipo di informazione. Recentemente, il 25 maggio di quest'anno, è arrivata una richiesta per il sequestro di una casa di posta, Croce Nera Anarchica, etinventati.org, all'interno di un'indagine sulla Federazione Anarchica Informale, che è poi la stessa indagine che portò il 7 ottobre dell'anno scorso al sequestro di Indymedia da parte dell'FBI, diciamo con un'interpretazione un po' estensiva del mandato che arrivava dalla Procura di Bologna. Anche in questo caso, diciamo che la richiesta che ci fu fatta fu quella di rimuovere la casella di posta, e noi fumo costretti ad adempiere a questa richiesta, poi sviluppando una piccola campagna ovviamente sulla libertà di espressione, sul fatto che era abbastanza delirante che una casella di posta dovesse essere distrutta all'interno di un'indagine di un certo tipo, insomma, in termini proprio di libertà di espressione e di rilevanza poi di un certo tipo di comunicazioni come elemento di prova nei confronti di chiunque. All'interno di quello che abbiamo scoperto ieri, il 21 giugno, è che all'interno di queste stesse indagini, e sempre per l'intercettazione di questa medesima casella, il 15 giugno del 2004, cioè un anno fa, la Polizia Postale si è presentata ad Aruba, dove noi ospitavamo il server, e ha chiesto sostanzialmente di poter prelevare il contenuto del server. E fin qui una procedura abbastanza tradizionale, se vogliamo. La cosa non tradizionale è che Aruba non ha notificato questa cosa ai legittimi proprietari del server, cioè l'associazione Investici, e ha semplicemente spento la macchina e dato la macchina in mano alla Polizia Postale, che a quel punto ha potuto prelevare presumibilmente quello che voleva. Rispondendo alle nostre richieste in merito al down prolungato della macchina con la scusa che i server, diciamo che le ciabatte elettriche di dove stava il server erano danneggiate e le stavano riparando. Questa sicuramente non è una procedura normale, di solito devono notificare. No, direi che non è assolutamente una procedura normale, perché eravamo noi a dover eventualmente effettuare quel sequestro e non certo Aruba, perché il server non è di proprietà di Aruba ma è di proprietà nostra, per cui la notifica avrebbe dovuto essere fatta a noi, primo, e in secondo luogo avremmo dovuto essere noi a procedere a questo sequestro oppure direttamente l'autorità, però comunque notificando a noi questo tipo di attività. Insomma, poi io non sono un esperto di procedure legali, questo lo andremo a verificare. Dopodiché mi sembra una procedura alquanto anomala. Dopodiché l'effetto diretto di questa procedura è che la polizia postale, senza che noi ne avessimo notizia, ha potuto liberamente intercettare e decrittare tutti i messaggi che entravano e uscivano dal server da un anno a questa parte. Ovvero, siccome comunque le intercettazioni presumo che non verranno fatti selezionando preventivamente il pacchetto che dovrebbero, come dire, individuare, sempre che possano farlo, sostanzialmente facendo una raccolta a strascico di tutto il traffico che entrava e usciva dal server, decrittandolo interamente, quindi decrittando interamente, non so, la posta di 5.000 utenti, i messaggi inviati alle mailing list da 30.000 persone, questi ordini di quantità qua, senza che queste persone fossero minimamente informate o avessero la possibilità minimamente di poter intervenire. Per cui, come dire, un'intercettazione di massima in spregio a qualsiasi regola della privacy è estremamente estesa e estremamente è fatta senza alcun criterio, diciamo così, di possibilità di controllo da parte nostra. Ieri quando ce ne siamo accorti, ovviamente quello che abbiamo fatto come è che abbiamo... Come avete fatto ad accorgervene? È che all'interno degli atti di questo ennesimo procedimento, che era quello per la casella di posta, che erano del 25 maggio, quando sono arrivate parte di questi atti, in parte di questi atti c'era scritto che appunto stavano effettuando le accettazioni sull'HTTPS e come lo stavano facendo. E a questo punto noi ci siamo resi conto, abbiamo ricondotto al famoso down che avevamo avuto il 15 giugno dell'anno prima e insomma, abbiamo fatto un po' di conti e abbiamo capito quello che era successo. Senti, in che modo pensate di difendervi adesso? Non solo, immagino, contro Aruba, che ci sarà in qualche modo una procedura legale contro di loro, ma intendo proprio anche per la protezione fisica del server, nel senso... Quello che noi diciamo è che sono abbastanza palesemente evidente che la privacy non può essere delegata, questo noi lo dicevamo pure da prima, e a questo punto diciamo con più forza, nel senso che ognuno deve fidarsi solo di se stesso per tutelare i propri dati, perché al di là di tutta la buona volontà, ci sono cose che vanno al di là della buona volontà e che non possono essere né previste né impedite da parte di nessuno che non sia tu stesso, con meccanismi di protezione come la criptazione forte, il PGP e via dicendo. Questo sicuramente è un dato che va assunto. Dall'altro punto di vista, noi quello che cerchiamo di fare è che avevamo già in procinto una ristrutturazione tecnica di tutto il meccanismo di funzionamento dei server che porterà diciamo così, i server a essere molto più sicuri e soprattutto a non essere in Italia. Dopodiché neanche questa è una garanzia, perché insomma l'esperienza di India e dell'FBI ci racconta che anche all'estero, come dire, gli ordini della magistratura possono essere intesi in senso abbastanza estensivo, diciamo così. E oltre a questo, ovviamente, noi quello che speriamo è che da questa cosa nasca un processo di acquisizione di maggiore consapevolezza di un numero molto più ampio di persone sul problema della privacy e di come proteggere i propri dati e la propria libertà di comunicare, e dall'altro lato, diciamo così, che cominci una campagna per fare che questa non sia solo una consapevolezza individuale, ma riesca a essere codificata sia in pratiche, diciamo così, che in norme che colmino un po' il vuoto legislativo e che consentano alle libertà fondamentali di essere, come dire, l'argine contro il quale si abbatte qualsiasi tentativo di limitarle. Questo ovviamente vuol dire un impegno da parte di tutti, non solo da parte dei movimenti, non solo da parte dell'associazione o dei singoli individui che usano i nostri servizi, ma da subito da parte di queste persone, ma anche da parte di tutti coloro che pensano che questa cosa sia una tutela fondamentale per poter operare in un clima di democrazia, non so come dire. Certo. Senti, i prossimi passi che invece state già compiendo proprio nell'immediato, mi parlavi prima fuori onda di un'interrogazione parlamentare. Sì, stanno iniziando a preparare un'interrogazione parlamentare e arriverà presto un esposto al garante della privacy che noi chiederemo a tutti gli utenti, diciamo non i singoli ovviamente, ma gli utenti collettivi, le persone pubbliche che usano i servizi di autistici di Inventati, e oltre a questo stiamo preparando una campagna di comunicazione e informazione, una campagna di boicottaggio di Aruba, in cui una delle prime misure è chiediamo a tutti quanti di dismettere il proprio contratto con Aruba, di trasferire i propri siti, i propri server altrove, non perché altrove siano potenzialmente meglio, ma come un segnale molto forte che va a toccarli dove più gli duole, cioè il portafoglio e diciamo così la faccia. Adesso queste sono le prime misure, stiamo cercando anche di elaborare campagne più articolate, sia di informazione, controinformazione e comunicazione che di conflitto e agitazione. Chiediamo anche a tutti che abbiano delle idee o delle proposte di contattarci e di attivarsi anche autonomamente, non è che deve passare tutto attraverso di noi, diciamo. Ecco, l'ultima cosa, quindi, per contattarvi? Per contattarci possono scrivere a investici@indivia.net, che è una mail temporanea che stiamo usando in questo momento, oppure usare ancora la mail info@autistici.org, coscienti del fatto che quello che trasferirete lì ancora per un po' sarà plausibile di controllo, mentre appena avremo risistemato i server entro qualche giorno, questo tipo di problema almeno dovrebbe essere limitato. A meno che ovviamente non gli ridiano di nuovo il server in mano alla polizia, allora a quel punto siamo punta a capo. Era l'intervista con Blicero, uno degli attivisti appunto di Inventati Autistici, che ci sono cose che tra l'altro si potrebbero aggiungere al suo discorso, lo faremo tra un attimo, prima un brano musicale che ci presenta Ale. Allora, sempre dalla compilation che abbiamo presentato prima, Counterfeit Funk, The Open Source Conspiracy di DJ JSN. E dunque abbiamo appunto iniziato a parlare di autistici e inventati, questo server che offriva diversi servizi, tra cui centinaia di mailing list e migliaia di caselle email, e tra queste caselle email, da non dimenticare, una cosa che non ha detto Bleacher nell'intervista, ma c'erano anche quelle degli avvocati del Genoa Legal Forum, e quindi l'intera strategia del Legal Forum nei processi che sono in corso è in questo momento probabilmente a disposizione della polizia in qualche modo. Questa è una delle cose che hanno denunciato nei giorni successivi all'intervista che abbiamo fatto. Ma comunque volevo tornare sul punto che diceva Bleacher, ovvero che la privacy non la puoi delegare, e in particolare nella casella di mail, che è una cosa sempre più fondamentale per molte persone, sia per il lavoro, sia per la corrispondenza privata, sia per come sia, insomma, per qualsiasi cosa della vita quotidiana, per migliaia di persone una casella email è fondamentale. Ci sono dei metodi per evitare o cercare di ridurre le possibilità che cose come quelle che sono successe ad autistici succedano. Di che cosa sto parlando, Marco? Sto parlando fondamentalmente delle tecnologie di criptazione, ovvero sia la matematica applicata a proteggere le informazioni. Criptografia, dal greco cripto, nascondere, e grafia, scrittura, è l'arte di appunto nascondere la scrittura. È un'arte che tra l'altro esiste da millenni, pare che primi esempi si vanno penso in Babilonia, quando c'era ancora l'inizio della scrittura. Di sicuro ai tempi di Cesare c'erano dei codici crittografici normalmente utilizzati per proteggere le comunicazioni militari. Normalmente infatti la crittografia è stata qualche portata... esempio di quell'epoca, Marco, così su due piedi, il codice appunto utilizzato da Cesare, che semplicemente consisteva nello spostare le lettere di un determinato numero in avanti, per cui la lettera A diventava, ad esempio, con la chiave 3 diventava A, B, C diventava la D, la B diventava la E, la C diventava la F, e così. Ovviamente un codice molto blando di protezione, però è stato utilizzato per anni. Poi sono andato avanti con... Ho sentito di un prete nel Medioevo che scriveva sulla sua cintura e poi l'ha arrotolata a un bastone, e solo se, avendo un bastone dello stesso diametro, tu potevi riarrotolare la cintura su questo bastone e leggere quello che c'era scritto. Sì, è un altro codice, non mi ricordo come si chiami, comunque. Cioè, ne sono stati veramente un sacco, e... fino a quando poi sono, diciamo, cominciati a nascere, vabbè, quelli, non andiamo troppo nel tecnico, quelli a crittografia pubblica e privata, a chiave pubblica e privata, che Francesco prima faceva un esempio carino, che era quello dei lucchetti. Vabbè, innanzitutto diciamo che uno dei problemi fondamentali della nascita della chiave pubblica è stato proprio il fatto che il problema di utilizzare un meccanismo di crittografia era il modo di un modo per far arrivare al nostro interlocutore il codice di decriptazione, quindi trovare un canale sicuro. Si è risolto questo parlando appunto alla metodologia di criptazione pubblica, che consiste, se vogliamo semplificare, nel distribuire tanti lucchetti in giro per il mondo, tutti uguali, e tenere voi la chiave, in modo che chiunque può prendere una scatola, chiuderla con quel lucchetto e essere sicuro che solo voi potete riaprire questa scatola. Quindi la crittografia a chiave pubblica e privata si chiama appunto chiave pubblica e privata, perché si creano queste due chiavi, diciamo, una rimane privata, ovvero sia non la si distribuisce, e invece la sua chiave simmetrica, dalla quale non è possibile richiamare l'altra chiave, che mi sto perdendo. La cosa importante dei sistemi di criptatura è che, a differenza appunto di quelli più blandi che abbiamo descritto prima, che sono un po' quelli, non so, anche sulla settimana enigmistica, dove vengono sostituite le lettere con dei numeri, è che si basano su algoritmi matematici non reversibili, ovvero non è possibile ricostruire la chiave dal contenuto, nemmeno conoscendone una parte, per cui anche avendo un testo criptato e conoscendo una parte del testo, ad esempio, oppure presumendola, come ad esempio il mittente, come avviene nelle mail, non è possibile tentare di estrarne la chiave, perché la procedura con cui viene generata questa chiave permette la sua unicità, e questa è la potenza degli algoritmi matematici. Purtroppo non sono sicuri per sempre, nel senso che tutti questi algoritmi si basano sulla velocità dei calcolatori, cioè alcuni anche a livello teorico sono impenetrabili. Almeno finché qualcuno non inventa qualche sistema O stravolge la per agire. matematica, che poi. Esatto. Alcuni invece, molti comunque, si basano su delle previsioni di velocità di calcolo, per cui per decrittare una chiave da 128 bit sarebbero necessari svariate decine di anni con i calcolatori moderni. Tant'è che in America sono vietate le chiavi a 128 bit. Espressamente proprio dalla legge americana, quindi alcuni software come ad esempio NewPG o GPG o tutti quei programmi che fanno criptazione, in America funzionano a 64 bit, cioè con chiavi più piccole e più facilmente No, in ricostruibili. realtà la questione, vabbè, poi lo chiudiamo, era che non potevano esportare codici a più di 64 bit di criptazione fuori dagli Stati Uniti. Esatto, sì. Esatto, però loro all'interno potevano utilizzarli. Sì, è il Vabbè. contrario di quello che sta dicendo Alessandro, però non Esatto, non importa. perdiamoci. Comunque, abbiamo detto che i sistemi di crittografia a chiave pubblica e chiave privata permettono un ottimo grado di sicurezza, appunto permettendoci creando questa coppia di chiavi, la chiave pubblica e la chiave privata, di distribuire a chiunque la nostra chiave pubblica, sarebbero gli infiniti lucchetti di cui parlava Francesco, e di tenere noi l'unica chiave in grado di aprire i lucchetti. Quando qualcuno Come vuole. possiamo fare per ottenere questo, Marco? Come possiamo fare? Possiamo utilizzare un software che si chiama GnuPG o GPG, che appunto è un'implementazione di questi algoritmi di crittazione di chiave pubblica e chiave privata. Quando noi prendiamo questo software scaricabile da gnupg.org, ci viene chiesto di creare la nostra coppia di chiavi. Questo è un procedimento che richiede mezzo minuto di calcoli intensivi della macchina, che devono inventarsi determinati numeri particolari in modo da che le due chiavi funzionino l'una al posto dell'altra, vabbè. E a questo punto, quando noi abbiamo installato questo software GPG, possiamo prendere ad esempio un plugin di Thunderbird, che si chiama, o di Mozilla, che si chiama Enigmail, e questo plugin permette di utilizzare le chiavi pubbliche e private che abbiamo creato prima, in modo da poter crittare un messaggio e essere verosimilmente sicuri che, no, diciamo, in modo da poter ricevere un messaggio crittato, in modo che colui che ce lo manda sia relativamente sicuro che nessun altro possa leggerlo. Allora, una cosa importante, Enigmail, scusa. un ulteriore passaggio importante è pubblicare la propria chiave. Quindi, perché il metodo funziona se la persona a cui spediamo la mail può recuperare la nostra chiave pubblica. Generalmente ci sono dei server che raccolgono queste chiavi pubbliche, alcuni sono già configurati in Enigmail. Però ecco, bisogna pubblicare la propria chiave, altrimenti chi riceve il messaggio non riuscirà a decriptarlo comunque. Ecco, Enigmail è un'interfaccia, diciamo, dedicata principalmente alle email. Poi ovviamente GPG si può utilizzare su qualsiasi tipo di documento o file che abbiamo sul nostro computer. Ah, insomma, è una cosa abbastanza interessante, perché se facendo degli esempi abbastanza pratici, se io voglio scrivere un'email a Marco senza che, per esempio, Alessandro la legga perché voglio proporgli qualcosa sulla trasmissione di segreto e non lo so, proporre una scaletta fantasma e poi fargliela dire ad Alessandro. Alessandro sbagliata e poi lo prendiamo in giro in trasmissione. Esatto, Posso come scrivere? potresti fare a mandare una mail crittata a me? Posso Tenuto conto che dovrei darla in mano ad Alessandro, perché dovrà portarmela lui. posso tranquillamente scaricare dal server. Mi sembra che la tua chiave sia sul Sì, Meet, esatto, no, sul i server sono server. sincronizzati fra loro, per cui. Ok, comunque posso scaricare la chiave di Marco GH sul server di GPG e scarico ovviamente la sua chiave pubblica. Posso. Perché la mia chiave privata ovviamente ce l'ho a Ce l'ha casa solo in un posto Marco. sicurissimo. Lui crede di avercela solo lui. No, è sicurissimo perché era sul suo vecchio portatile che gli hanno rubato. Ecco, insomma, sì, ecco, una cosa importante è tenersi La la chiave chiave di privata revoca. da qualche parte e la Esatto, chiave infatti. di revoca anche, ancora più Va bene, soprattutto. non complichiamo le cose, dai. Vabbè, le chiavi di revoca ne parleremo magari un'altra volta. Posso scrivere quest'email a Marco e posso anche mandarla in una mailing list senza nessun problema, come quella che è effettivamente la mailing list di noi scialtroni nello spazio, che tanto Alessandro non potrà mai leggerla. Esatto, io poi quando riceverò questa mail, soltanto io ho la mia chiave privata e con quella che chiave... è tra l'altro protetta da password come scrupolo, esatto, di più, esatto. Quindi è anche abbastanza più difficile per un utente normale, anche venendo in contatto della chiave privata, di decifrare comunque un messaggio, anche se... Esatto, e a quel punto con la mia chiave privata e col messaggio posso riottenere il messaggio originale di Zamp senza il minimo problema. E ovviamente ho la sicurezza di mandarlo anche attraverso un canale insicuro, che potrebbe essere in una mailing list o attraverso internet, o mandarlo in posta all'account di autistici di Zamp, che è stato di recente sequestrato, e avendo comunque la sicurezza di averlo potuto mandare in modo privato. Allora, siamo in chiusura di trasmissione, ancora pochi istanti, giusto per ricordarvi gli indirizzi dei siti che vi servono per appunto imparare, per scaricare e utilizzare i programmi che abbiamo appena presentato. Newpg.org vi permette appunto di avere il programma New Privacy Guard, e poi enigmail.mozdev.org è l'interfaccia di Enigmail che si configura benissimo con Mozilla Thunderbird, il nostro programma di posta che vi abbiamo già, di cui vi abbiamo già parlato diverse volte. Il nostro volte. Programma di posta preferito. Preferito, tu lo usi? Ma no, non lo uso. Io no, però. Tu, Marco, non lo usi, quindi io lo uso molto e mi piace molto. No, uso però, anche Enigmail, in effetti. Sia Alessandro che Francesco li usano molto. Perfetto, quindi direi che possiamo dare il via alla nostra sigla. Via la sigla di chiusura, si chiude così la 22esima sì, puntata di Cialtroni nello spazio. Non sappiamo quante ce ne saranno ancora in luglio, non sappiamo nemmeno se ce ne saranno. No dai, la prossima dovrebbe esserci, però poi forse dopo fare una pausa estiva, ma... Giustamente, perché poi ci saranno un sacco di... Non temete, abbiamo un sacco di repliche. Possiamo in effetti pubblicare, mandare a nastro repliche giorno e notte. Lo sanno che sono le repliche, sono sul sito, quindi... Ah, è vero, certo, sono ovviamente disponibili tutte sul nostro sito web radio.circolab.net oppure spazio.circolab.net. Un saluto a tutti e tutte! Ciao!